perfetto giorno. La Francia volta pagina, prepara la sfida per l'Eliseo di Macron e Le Pen. Oltre all'Eliseo sarà da conquistare anche il Parlamento. Rientrato in Italia Gabriele Del Grande, in Turchia non mi hanno torto un capello, dice, ma mi hanno privato delle libertà. All'Italia ore finali per il referendum, appello del ministro Delrio, non esiste un piano di salvataggio alternativo. Dopo Scarponi altre due vittime in bici sulle strade, il sottosegretario ai trasporti Nencini a Radio 24, presto avremo una nuova legge. Cari ascoltatori, ancora un buongiorno da Gigi Donelli al microfono, da Valeria Bernardi in regia, da Miriam Lucchetti in assistenza oggi in questo appuntamento di Effetto Giorno dalla redazione di Radio 24. Dunque ripartiamo dalla sfida, saranno appunto Macron e Le Pen a sfidarsi tra due domeniche, il 7 maggio, per la conquista dell'Eliseo. Il punto. I mercati festeggiano ed è comprensibile. La Francia, l'Europa, il mondo hanno evitato lo scenario da incubo di un ballottaggio tra l'estrema destra e l'estrema sinistra. Ma bisogna stare attenti ad anticipare un risultato finale molto probabile ma non sicuro. Da oggi si apre una nuova campagna elettorale e per Emmanuel Macron non sarà una passeggiata. Rispetto al 2002, quando ci fu lo shock del passaggio al secondo turno di Jean-Marie Le Pen, la situazione è completamente cambiata. Oggi la figlia Marine può contare su un serbatoio di voti che 15 anni fa non esisteva. Per lei voterà una parte della destra storica e persino della sinistra radicale, che vede in Macron un nemico ancora peggiore rispetto al Front National, il cui programma ha molti punti in comune con quello di Mélenchon. Al bipolarismo politico che ha fatto la storia recente del paese se ne è sostituito uno sociale e culturale, tra la Francia aperta e moderna di Macron e quella chiusa e nostalgica della Le Pen, ancora più radicale, che sta spaccando il paese. È quindi probabile che alla fine vincerà Macron, ma con un divario più piccolo di quanto non dicano i sondaggi. E quella di domenica 7 maggio sarà un'altra giornata di suspense. Marco Mussanè, Radio 24 e Sole 24 Ore, Parigi. Una giornata di suspense dunque a cui possiamo aggiungere, almeno sicuramente lo sarà per i leader politici francesi, quello che a giugno dovrà poi definire il Parlamento che accompagnerà il prossimo, la prossima presidente francese. Un presidente senza maggioranza parlamentare? Il paradosso di un possibile e al momento probabile successo di Emmanuel Macron al ballottaggio del 7 maggio sta tutto nel suo movimento En Marche, che con un solo anno di vita è ancora troppo giovane per essere radicato sul territorio al pari di schieramenti più tradizionali. Al momento En Marche non è rappresentato tra i 577 deputati all'Assemblea Nazionale, tuttora saldamente nelle mani dei socialisti, i grandi sconfitti di ieri. Macron promette una rottura nel metodo di selezione dei candidati per le liste elettorali. Negli ultimi mesi 13.000 curricula di potenziali deputati hanno raggiunto il suo quartiere generale. Ogni opzione al momento resta aperta. La più favorevole è quella di un premier di En Marche, magari in coalizione coi centristi di Modem e soprattutto coi socialisti. In mezzo l'ipotesi di un governo guidato da rappresentante di un altro partito, alleato però di Macron. Ipotesi peggiore è quella di un parlamento ostile. Mentre l'ipotesi di una Le Pen presidente apre uno scenario opposto. Lei ha un partito strutturato, in grado di raggiungere percentuali importanti alle prossime legislative. Ma, al contrario di Macron, rischia di non trovare un solo schieramento con cui costruire una coalizione. A quel punto dovrebbe cercare un appoggio difficile da parte della destra di Fillon. Il voto parlamentare dell'11 e 18 giugno rischia così di trasformarsi nel terzo e quarto tempo della sfida per le presidenziali. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Italia poco fa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto con la manovra di correzione dei conti, che ora può essere pubblicato dunque in Gazzetta Ufficiale. E in Italia oggi è rientrato dopo due settimane in una carcere turca Gabriele Del Grande. Sentiamo in diretta da Roma Elisabetta Fiorito. Sì, dopo 14 giorni passati in un centro di detenzione in Turchia, Gabriele Del Grande è finalmente in Italia ad accoglierlo a Bologna, i familiari e il ministro degli esteri Angelino Alfano. Il premier Paolo Gentiloni invece ci ha parlato per telefono, ma sentiamo quanto ha detto il blogger. Sto bene, la più grande difficoltà è stata la detenzione, la privazione della libertà, anche se nessuno mai mi ha mancato di rispetto, mi ha mostrato violenza, è una violenza istituzionale quella di cui sono stato vittima. Il punto è di un giornalista che viene privato della propria libertà per 14 giorni mentre sta svolgendo il proprio lavoro in un paese amico. Per Alfano questa è la migliore festa della liberazione. Il ministro degli esteri aveva dato la notizia questa mattina con un tweet: Gabriele sta tornando in Italia, ho avuto la gioia di avvisare i suoi familiari. Il rimpatrio è avvenuto a seguito di una procedura di espulsione decisa dalle autorità turche. La Farnesina ha sbloccato la situazione dopo giorni di stallo grazie al lavoro silenzioso della nostra diplomazia. A te Gigi. Grazie Elisabetta Fiorito. Visto che Gabriele Del Grande, chi magari l'ha conosciuto in questi giorni, può anche seguire invece il suo lavoro sul blog che ha realizzato ormai da parecchi anni, Fortress Europe. Ecco una notizia appena battuta dall'agenzia che ci collega a questo tema drammatico: 6 corpi senza vita di migranti sono stati recuperati oggi nel mare Egeo davanti alle coste dell'isola greca di Lesbo. Una donna incinta è stata tratta in salvo. Questa è una nota della Guardia Costiera greca. Torniamo invece sulla scena del conflitto siriano. La coalizione diretta dagli Stati Uniti oggi ha catturato 15 jihadisti dello Stato Islamico. I combattimenti proseguono in varie parti del territorio. Servizio. Con 500.000 morti e oltre 5 milioni di rifugiati in fuga dal paese, la guerra civile in Siria dura ormai da oltre 6 anni e una soluzione appare ancora decisamente lontana. Soltanto ieri diversi media arabi hanno riportato la notizia di un attacco dell'aviazione israeliana ad una postazione nei pressi di Quneitra, nella parte siriana delle alture del Golan, che ha provocato la morte di 3 persone e il ferimento di altri 2. Uomini che farebbero parte di una milizia locale sostenuta dal regime di Bashar al-Assad. E non si ferma neppure l'avanzata, seppure più lenta e accidentata del previsto, della coalizione a guida americana, che comprende anche le milizie curde dello YPG, verso Raqqa, capitale del califfato di al-Baghdadi. 2 giorni fa, nei pressi di Deir ez-Zor, a sud-est di Raqqa, sulla strada che va verso il confine iracheno, un comando americano ha catturato 15 combattenti dello Stato Islamico, tra i quali un comandante. Secondo quanto annunciato dalla TV satellitare curda Rudav, l'operazione è stata compiuta nella notte da un gruppo di paracadutisti sostenuti da forze di terra. Marco Barbonaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Istanbul. In Israele oggi alle 10 in punto, ora locale, al suono delle sirene, il paese si è fermato per commemorare il ricordo delle vittime della Shoah. Ovunque fossero, per strada, negli uffici, al lavoro, scendendo dalle auto dopo averle arrestate, gli israeliani per 2 minuti si sono messi sull'attenti nel ricordo di 6 milioni di ebrei uccisi dai nazisti nel giorno appunto della celebrazione del Yom HaShoah. In Germania invece la strage della Love Parade di Duisburg del 2010 sarà oggetto di un processo, lo ha deciso la Corte d'Appello di Düsseldorf, rinviando a giudizio le 10 persone incriminate per l'accaduto. Il Tribunale di Duisburg aveva invece deciso l'archiviazione del caso. La manifestazione finì in tragedia, con un bilancio di 21 morti, tra cui una ragazza italiana, e 600 feriti. L'opposizione venezuelana ha convocato per oggi una mobilitazione a livello nazionale per bloccare il traffico durante tutta la giornata nelle principali arterie del paese, con l'obiettivo di mantenere alta la pressione dello scontro con il governo di Nicolás Maduro. In Brasile, intanto, Lula da Silva tenta il ritorno in scena. Il Brasile non delude mai, né sulla spettacolarità del calcio, né sulla stravaganza della politica. L'attuale presidente, Michel Temer, corre sul filo dell'impeachment per quel grande scandalo definito lavaggiato, autolavaggio, la mani pulite brasiliana che ha travolto la prima linea della politica. Anche l'ex presidente Lula corre il rischio di essere travolto dallo scandalo dopo le dichiarazioni dell'ex ministro delle finanze Antonio Palocci. Intanto però, secondo i sondaggi, Lula è il candidato che potenzialmente potrebbe prendere più voti alle elezioni presidenziali in programma nell'ottobre 2018. Il 30% degli intervistati ha dichiarato che lo sceglierebbe di sicuro e un altro 17% ha dichiarato probabilmente sì. A meno di un anno dalle Olimpiadi di Rio de Janeiro, il Brasile, tra scandali, recessione e impeachment, si appresta a vivere un altro anno di passione, stavolta politica, non sportiva. Roberto Darin, Radio 24, Sole 24 Ore. Il dossier all'Italia, non c'è altra soluzione né possibilità di nazionalizzazione, dice il ministro dei trasporti Del Rio. Oggi alle 16 il termine del tempo previsto per il referendum tra i dipendenti. Poche ore ancora per decidere il destino di Alitalia. I dipendenti avranno tempo fino alle 16 per votare sul preaccordo. Oltre la metà dei 12.500 lavoratori si è già espressa nei seggi a disposizione su un'intesa che, a fronte della ricapitalizzazione, prevede un calo degli esuberi del personale a tempo indeterminato da 1.338 a 980 e un taglio degli stipendi del personale di volo dell'8%. Dal governo continua intanto il pressing perché prevalga il sì. Senza l'intesa sul nuovo piano industriale l'Alitalia non potrà sopravvivere, ha avvertito il presidente del Consiglio Gentiloni. Il ministro dei trasporti Delrio ha così aggiunto al TG1. Non c'è un'altra soluzione a questa ricapitalizzazione, non ci sono possibilità di nazionalizzazione. Appello per il sì anche dal sindacato, così la Furlan CISL. Si chiedono sacrifici ai lavoratori, alle lavoratrici, ma a fronte di ricapitalizzazione e di investimenti per la proprietà. All'Italia non può chiudere. Di tutt'altro avviso l'USB, che ribadisce: il no di chi vota non è un passo verso il baratro, ma è una giusta risposta dei lavoratori. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Europa sostenibile, ecco una mappa che racconta il continente e suggerisce ampi margini di manovra anche per il nostro paese. Non solo PIL, deficit e debito. Da quest'anno, nel documento di economia e finanza italiano, hanno fatto il loro ingresso quattro indicatori del benessere. Ma che cosa succederebbe se i parametri dell'Italia venissero applicati a tutti i 28 paesi? Il risultato è una mappa dell'Europa sostenibile a più velocità, dove l'Italia non è mai maglia nera, ma ha ancora molti margini di miglioramento. La forbice del reddito pro capite va dal minimo della Bulgaria al massimo della Germania, con circa 20.000 euro di differenza all'anno. L'Italia, con 21.000 euro, si situa poco sotto la media europea, ma è soprattutto nel mondo del lavoro che il nostro paese sconta i ritardi maggiori. Basti pensare che il 22,5% delle persone è inattivo e non cerca nemmeno un'occupazione, una situazione che ci avvicina alla Spagna e alla Grecia. Ed è ancora alto da noi come a Madrid il tasso di disuguaglianza tra i più ricchi e i più poveri, anche se il fanalino di coda resta la Romania. Il nostro paese si mette invece in luce per le emissioni di anidride carbonica, il livello più basso rispetto ai big come Germania e Olanda. Per tutti il peggio della crisi sembra passato, ma la strada da percorrere sul fronte del benessere sostenibile è ancora molta. Chiara Bussi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso la fiera del libro, anzi le due fiere del libro a distanza di un mese. Ieri si è chiusa quella di Milano, una prima edizione, e per molti l'interrogativo: allora com'è andata? Sentiamo. Su una cosa sono tutti d'accordo. La data della prima edizione di Tempo di Libri, fra Pasqua e il ponte del 25 aprile, era sbagliata e ha penalizzato l'affluenza. Poco più di 60.000 visitatori, un risultato al di sotto della soglia dei 70-80.000 che si erano prefissi gli organizzatori. Mercoledì e giovedì poca gente, diversi eventi annullati, la ripresa c'è stata nel weekend. Incontri più gettonati quelli con i grandi nomi, da Saviano a Carofiglio, da Clara Sanchez a Irvin Welsh, passando per il faccia a faccia fra Walter Siti e Michela Marzano, protagonisti delle polemiche letterarie dell'ultima settimana. Sui programmi, quello generale e quello per bambini e ragazzi, nulla da dire, ottime scelte. È mancata però la presenza delle scuole, come ammette Renata Gorgani, presidente della Fabbrica del Libro, che organizza la manifestazione. Con le scuole in specifico siamo arrivati molto tardi, cioè quando abbiamo potuto presentare uno straccio di programma, le scuole avevano già organizzato tutte le uscite possibili e immaginabili. Per l'anno prossimo gli organizzatori hanno già detto che vogliono allungare l'apertura. Chiudere alle 19.30 è troppo presto, ma il nodo centrale resta sicuramente quello della data. L'associazione editori, che ha voluto fortemente la fiera milanese, non ha mai fatto mistero di volerla fissare a maggio, ma per evitare l'accavallamento con Torino si era scelta un'altra data. Ci sarà questo fair play anche nel 2018? Per ora non si sbilanciano e parlano di un generico primavera. Staremo a vedere. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Staremo davvero a vedere, da Alessandra Tedesco a Carlo Genta. Carlo, il campionato non sembra che ci sia molto più da vedere. No, non c'è molto più. No, da vedere c'è poco. Cioè, ci sarà una Roma-Juventus che sarà importante soprattutto per la Roma per difendere il secondo posto. Adesso è chiaro che la classifica è un effetto ottico, perché la Roma deve giocare stasera a Pescara contro il vecchio Zeman. Però sono al momento 11 i punti che dividono la Juventus dalla Roma, a 5 giornate dalla fine, dopo il 4-0 che non è poca roba, rifilato dalla Juventus al Genoa, che non era esattamente però l'avversario più forte. Sono altri temi che fanno discutere, io direi, perché tipo noi milanesi? Bravo, tipo voi milanesi. Sì. Voi adesso, siamo diventati voi. Voi milanesi, che siete, insomma, il derby del pianto titolo oggi, a proposito di Milano, il quotidiano sportivo milanese, quello che si veste di rosa. Ma è così, perché l'Inter di Firenze è stata qualcosa di inguardabile, improponibile, ai tratti ai limiti della decenza. Lo stesso vale per il Milan di ieri, che ha perso in casa con un Empoli che nel girone di ritorno è riuscito a strappare proprio due vittorie in trasferta, una a Firenze e una a Milano, che garantiscono la salvezza su un Crotone che la meriterebbe ampiamente, che pure ieri ha vinto a Genova con la Sampdoria. Ma ci sono molti altri temi, perché c'è stato un classico, quella sì che è stata una partita di pallone, che forse aumenti i meriti della Juventus, perché il Barcellona è andato a vincere 3-2 nel segno di un enorme Messi sul campo del Real Madrid. E poi attenzione al moto mondiale. Valentino Rossi su una pista sfavorevole, ieri secondo alle spalle dell'imprendibile Marquez, terzo Pedrosa, primo nella classifica mondiale piloti, viene da dire, se rimane in piedi, puntini, puntini, puntini. Una gara ancora, l'ennesima gara spettacolare, grazie a Carlo Getta, che ovviamente risentiamo tra non molto, tra 45 minuti per essere precisi. E prima della viabilità, un comunicato dei giornalisti del gruppo, il Sole 24 Ore ha perso negli ultimi 8 anni 353 milioni di euro, una cifra enorme dovuta a tante scelte sbagliate, oggi in parte oggetto di indagini della Procura di Milano e della Consob, scelte che da sempre sono state contestate dai giornalisti, come testimonia il comunicato pubblicato oggi sul giornale sul sole24ore.com. Confindustria, che nei 7 anni precedenti la crisi ha comunque incassato 66 milioni di dividendi, ha annunciato una ricapitalizzazione di cui però non sappiamo modalità e scadenze. L'importo di 70 milioni in discussione è a prima vista insufficiente e potrebbe rivelarsi a breve inadeguato visto il volume delle perdite correnti. Le redazioni del gruppo chiedono allora all'azionista un'assunzione di responsabilità per scongiurare il precipitare della situazione e tornare a produrre valore, gettando così le basi per un vero rilancio. Viabilità. Effetto giorno. Elezioni in Francia, la sfida per l'Eliseo. Oltre l'Eliseo sarà da conquistare il Parlamento. Rientrato in Italia Gabriele Del Grande, in Turchia dice non mi hanno torto un capello ma mi hanno privato della libertà. All'Italia sono le ore finali per il referendum, appello del ministro Del Rio, non esiste un piano alternativo. Dopo Scarpone, altre due vittime in bici sulle strade, il sottosegretario ai trasporti Nencini, Radio 24, presto una nuova legge. En votre nom, je porterai pour le deuxième tour de cette élection l'exigence de l'optimisme. E la voix de l'espoir que nous voulons. Voci dalla serata elettorale, quella che sentite in questo momento è quella di Emmanuel Macron, dunque il vincitore di tappa sicuramente. De conduire notre pays commence ce soir et nous le gagnerons. E naturalmente, diciamo, la sua invocazione alla vittoria con il classico richiamo alla Repubblica e alla Francia, e poi naturalmente Marine Le Pen. Une question ce matin, je suis venu pour démarrer cette campagne de second tour de la seule manière que je connaisse, bonjour monsieur, à savoir sur le terrain. Marine Le Pen che riprende dunque il suo percorso sul terreno, come dice, l'unico modo in cui sono capace di fare politica sul terreno. Sicuramente quello che possiamo dire è che nei prossimi 14 giorni ci saranno chilometri da percorrere per i due leader che si confrontano. Allora, con Sergio Nava facciamo un po' il punto di giornata, anche noi il punto tappa. Sergio. Allora, dicevi Gigi, Marine Le Pen è stata la prima dei due candidati andati al ballottaggio a tornare attivamente in campagna elettorale, lo ha fatto a Rouen, che è nel Nord Pas-Calais, cioè quindi nelle sue roccaforti del nord della Francia. Ricordiamo anche la divisione geografica tra una ovest che è andato prevalentemente a Macron e un est invece è andato prevalentemente a Marine Le Pen. Marine Le Pen è tornata, ha fatto campagna tra i suoi elettori nel suo feudo, quindi in terreno amico, e ha detto non sono delusa, a chi gli chiedeva ma non si aspettava, insomma i sondaggi fino a qualche mese fa la davano in testa. Lei ha detto non sono delusa, ha tornato a toccare i temi a lei più sensibili, che poi è la lotta contro il terrorismo, dicendo Macron non ha un piano contro il terrorismo, io invece sì, e poi appunto ha anche un po' ironizzato sulla cena al ristorante La Rotonde di Macron. Comunque ha attaccato, ecco questo fondamentalmente, il fronte repubblicano che si sta materializzando all'orizzonte, perché poi alla fine questa sta diventando anche un po' la discussione, dove andranno a pescare? Ecco, ieri Fillon è stato chiarissimo, abbiamo la voce nel blocchetto iniziale che poi abbiamo sfumato per ragioni di tempo, diciamo è stato il primo a riconoscere la sconfitta, ma anche a dire chiaramente che la parola d'ordine appunto della destra repubblicana, che almeno lui cerca di rappresentare, evidentemente non con un enorme successo, è quella di comunque fermare il fronte nazionale. Ricordiamo che questo poi è un po' un classico. Il papà di Marine Le Pen, che è stato il primo candidato al fronte nazionale a passare lo scoglio del doppio turno, si era trovato da questo punto di vista un blocco molto compatto, quindi al secondo turno aveva raccolto il 18% dei voti. Marine Le Pen ha comunque portato a casa un risultato storico, 7 milioni e mezzo di voti per lei sono in assoluto miglior risultato. Come dire, un voto formidabile. Miglior risultato anche perché il precedente miglior risultato fronte nazionale era alle regionali 2015, sotto comunque i 7 milioni. Dove andranno a pescare? Lo hai appena detto tu, Gigi. I repubblicani di Fillon, attraverso lo stesso Fillon, oggi si stanno riunendo, sosterranno Macron. I socialisti, pochi minuti fa, attraverso il loro portavoce, hanno ribadito che sosterranno, quello già aveva detto Hamon ieri sera, cioè sosterranno Fillon. Sosterranno Macron, quindi diciamo i due grandi partiti tradizionali, però ricordiamo hanno preso alla fine circa il 25% dei voti. Ricordiamo che nel 2012 Hollande e Sarkozy avevano totalizzato circa il 56%, quindi si sono più che dimezzati i due grandi partiti francesi. E allora, insomma, già Macron sappiamo che ha i voti di Modem, che è una piccola formazione centrista iberu. Dove potrebbe andare a pescare invece Marine Le Pen? Perché questo è a questo punto il vero interrogativo. E allora sicuramente corteggerà gli elettori Mélenchon, perché su alcuni punti, l'ostilità ad esempio verso l'Europa, le politiche sociali... Mélenchon, lo ricordiamo, a sinistra della sinistra, quindi uscito dal PS, dal Partito Socialista, già da parecchio tempo, per creare il suo movimento di sinistra. Quindi già lui, tra l'altro, ricordiamo, Mélenchon ha annunciato che sonderà i suoi elettori per capire a chi dare l'endorsement, quindi Mélenchon non si è ancora espresso su... Sì, ieri sera è stato molto sulle sue. Assolutamente. In questo punto. E come dicevamo, ci sono punti in comune tra... Tanto che un duello Mélenchon-Le Pen era temutissimo in Europa al ballottaggio, perché in realtà nessuno dei due... Soprattutto dalle borse, diciamo. Soprattutto anche dalle borse. Dal mondo economico-industriale, certo, perché erano outsider... E oltre a Mélenchon potrebbe andare a pescare anche in quel 6% circa di il 5% circa di Dupont-Aignan, che è gollista sovranista, e anche quello potrebbe essere un bacino interessante, ma soprattutto Marine Le Pen potrebbe avere benefici da un'astensione certo, molto alta potrebbe beneficiare Marine Le Pen. Ecco, astensione che comunque anche ieri ha coperto, diciamo, un buon candidato al primo o secondo posto, perché si è piazzata intorno al 22%. Grazie a Sergio Nava. E cambiamo totalmente argomento, si svolgeranno domani alle 15:30 a Filottrano, in provincia di Ancona, i funerali di Michele Scarpone, il corridore marchigiano ucciso sabato da un furgone mentre si allenava. Anche ieri due ciclisti, entrambi due lavoratori extracomunitari, sono stati vittime in Molise di incidenti stradali. Il primo è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un SUV, mentre il secondo è stato trovato senza vita pochi chilometri più avanti. Sulla necessità di una nuova legge per che tuteli chi va in bicicletta, Dario Ceccarelli ha intervistato il sottosegretario ai trasporti Riccardo Nencini. La strada in questo momento non è amica dei ciclisti, non le pare? Non lo è stata negli ultimi anni. Sono troppi i morti tra i pedoni e i ciclisti dentro e fuori le città. È la ragione per la quale stiamo pensando a delle misure che riescano ad attenuare il numero della incidentalità per quella che viene definita l'utenza debole. Ecco, perché oltre ai campioni, purtroppo il caso di Scarpone lo conosciamo, però ci sono, come diceva lei, tanti utenti deboli che ogni giorno vengono colpiti, che sono pendolari, studenti, gente che usa la bicicletta per lavoro o per svago. È esattamente così, con poca differenza tra chi la usa nel cuore della città, perché sono poche le città italiane che possono godere di piste ciclabili, di ciclovie, e nessuna differenza con chi invece ne fa uso fuori dalla città. Lei diceva di una nuova normativa che si sta studiando, nel dettaglio come sarebbe esattamente? Sono due le norme sulle quali stiamo lavorando, una con il Ministero dello Sport e l'altra con il Ministero degli Interni. La sospensione della patente per chi guida facendo uso di cellulare, di smartphone o di altri strumenti che distraggono da una guida corretta, e qui prevediamo la sospensione della patente. Secondo, per qualsiasi veicolo che superi un ciclista bisogna che venga osservata la distanza di 1,5 metri. Se queste due misure riusciamo a cucinarle nel tempo più breve possibile, probabilmente, io sono ottimista, potrebbero avere un impatto positivo anche sulla incidentalità stradale. Cos'è che manca in Italia, sia nell'utenza che nella cultura generale? Intanto mancano piste ciclabili. Le città italiane hanno straordinari e bellissimi centri storici, molto spesso chiassi, vie molto strette. Nelle progettazioni più recenti solo in alcune periferie sono state realizzate le piste ciclabili, e questo naturalmente costituisce un problema. Se il ciclista si muove, come si muove, non avendo alternativa in mezzo al traffico tra le auto, mezzi pesanti ed altri veicoli. Secondo, il codice della strada che abbiamo, essendo originario dell'inizio degli anni 90, non poteva prevedere tutte le distorsioni che vengono provocate dall'uso di smartphone e cellulari, perché allora non c'erano, e quindi bisogna correre ai ripari, perché quelli sono una delle cause maggiori, se non la maggiore, di incidente sulla strada. Ultima cosa, il numero dei ciclisti, sia per svago, per passione, per lavoro, è in grande crescita, o sbaglio? È così, torna la cultura degli anni 50. Quando c'è una bella canzone che ricorda che si usava la bicicletta per andare a lavorare, per andare a studiare, per andare a fare l'amore. È un modo di riconciliarsi anche con l'ambiente, però per riconciliarsi al meglio possibile bisogna avere norme e bisogna avere strutture, altrimenti quella quota di circa 250 ciclisti che muoiono ogni anno sulla strada non riusciamo ad abbatterla. Numeri davvero assurdi in un paese che ha sicuramente mezze capacità per realizzare più ciclabili. Abbiamo sentito, parliamo dei centri storici, di solito purtroppo queste tragedie non avvengono tra due palazzi del 400, ma di solito sulle statali, quando naturalmente magari siamo all'imbrunire, quando il ciclista non è tanto ben segnalato, quando l'automobilista, che poi siamo noi a seconda dei vari momenti, viaggia troppo rapidamente. Insomma, davvero una campagna che dobbiamo sostenere per moltiplicare quelle che sono anche presenti in luoghi tipo qua sotto la nostra sede, ci sono delle ciclabili, cioè non stiamo parlando di nulla di impossibile. Bene bene, siamo arrivati alle 13.29, è tempo, allora ci salutiamo per qualche momento, sentiamo insieme la borsa, poi torniamo a parlare di un altro tema che è attualità e anche ricorrenza, se vogliamo, parleremo di unioni civili. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. 13.34 minuti, ancora un saluto da Gigi Donelli al microfono, da Valeria Bernardi in regia, da Miriam Lucchetti in assistenza, da tutti voi, dai vostri messaggi. Ma quali ciclabili? Facciamo già fatica a mantenere lo stato delle strade, dice Roberto da Busto. I ciclisti, i corridori non corrono mai nelle piste, punti esclamativi, non so bene questo cosa voglia dire. E ancora, i ciclisti sono molto molto indisciplinati, non utilizzano le corsie riservate e percorrono la strada appaiate. Poi è una legge per diminuire le automobili, invece, insomma, ci siete anche voi, come sempre, naturalmente ci sono le notizie e i temi. Allora, in questi minuti abbiamo un ospite con noi, è Vincenzo Miri, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a tutti. Avvocato di Rete Lenford, avvocatura per i diritti LGBT. A lui ho chiesto di essere con noi qualche momento per di fatto fare un po' un punto di quella che è stata una grande legge di trasformazione dei diritti in Italia, quella che per comunità e per nome chiamiamo legge Cirinnà. Il suo nome dunque è legato a quello che riconosce anche in Italia le unioni civili. Come siamo messi quasi un anno dopo, avvocato? Allora, un anno dopo siamo messi sicuramente che l'Italia è uscita da questo vuoto normativo vergognoso per il riconoscimento non solo di diritti ma anche di obblighi in capo alle persone, certo, che dello stesso sesso, che appunto vivono una condizione di coppia finalmente riconosciuta dallo Stato. Si è inserito appunto questo istituto delle unioni civili, che è un istituto creato appositamente perché nel dibattito politico si era esclusa la possibilità di estendere il matrimonio alle coppie formate da persone dello stesso sesso, ed è però un istituto che ha obiettivamente avuto dei risultati importanti nella trasformazione sicuramente giuridica delle persone, perché hanno avuto diritti equiparabili a quelli matrimoniali in ottima parte, e poi culturalmente perché senz'altro c'è stato un importante, come dire, una visibilità anche statale di questa relazione, perché ricordiamo che è una relazione che si costituisce non per un accordo tra le parti, ma di fronte ad un ufficiale dello Stato civile, quindi certo. È un ecco, che è una forza, insomma, una grande rivoluzione culturale, sì. Credo che dovremmo essere, penso, siamo tutti d'accordo, io lo sono, ma detto ciò vorrei anche chiederle, perché poi lei si occupa appunto delle problematiche, sì. Ho sentito che accennava prima della trasmissione all'ipotesi di come dire, di piccoli dispetti, di situazioni, sì. Ci racconti qualcosa? Beh, nella prima fase applicativa, in questo primo anno, ad esempio, alcuni sindaci hanno creato il problema: dove si costituisce l'unione civile? Le facciamo fare. Sarà dove ci si sposa, immagino. Io mi sono sposato in comune. Lei immagina male, perché alcuni sindaci hanno detto: no, le unioni civili le facciamo in una saletta, diciamo così, per tacere l'altro, in una saletta contigua, ma mai la sala riservata a quella di rappresentanza. Cioè, un po' di nascosto, insomma. Facciamo diciamo una saletta che era in origine uno sgabuzzino perché era un ufficio anagrafe, poi è stato rimodernato, però è stato necessario intervenire con una causa e il TAR della Lombardia, la sezione di Brescia, ha condannato, ha annullato la delibera della giunta comunale di un comune che aveva invece deliberato appunto questa separazione. Ecco, avvocato, ma sono dei casi, delle mosche bianche in questo caso negative? Allora, sono delle mosche bianche perché comunque la maggior parte delle situazioni si sono risolte anche dopo i decreti attuativi che sono intervenuti un mese fa circa e sono diventati, diciamo, sono entrati in vigore, però rimangono dei problemi aperti, anche quello chiaro. Del cognome comune della coppia, che fine ha fatto questo cognome, ci sono cause in corso, pronunce che si susseguono, oppure il tema apertissimo ancora che è il grande buco di quella legge, che è tutta la parte sulla filiazione. Ecco, avvocato, io la ringrazio, Vincenzo Miri, lo ricordo, avvocato di Rete Lanford. Oggi volevamo in qualche modo fare un piccolo richiamo anche alla nostra memoria di un tema sul quale torneremo, perché appunto ci sono dei piccoli dispetti ma anche dei grossi problemi, e sarà dunque nostra cura tornare a parlarne con voi e con i vostri commenti. Grazie avvocato Miri, per ora è tutto, adesso è tempo di continuare la nostra programmazione standard, poi noi ci risentiamo tra una ventina di minuti circa.